got to give a little. Indovina chi viene a cena? Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. To keep my hands on myself. Bentornati a Indovina chi viene a cena da Valentina Furlanetto. Oggi siamo con un ospite, una ballerina nata in Italia, una ragazza di mamma napoletana e papà nigeriano, una ballerina di colore. Siamo con Lidia Keriu, benvenuta. Grazie, buonasera a tutti. Allora Lidia, la curiosità nei tuoi confronti nasce dalla tua attività, dal tuo successo, ma anche, diciamocelo, dal colore della pelle, no? Sì, ci sono molti stereotipi, uno di questi è anche quello. Sinceramente mi mette molto più in soggezione l'essere presentata con il background dei miei genitori piuttosto che il mio, perché è una cosa che, come ti dicevo, capita sempre ed è una cosa che mi penso di non essere mai stata preparata a dovere, perché così, pensando a quando ero piccola e pensando a quando facevo anch'io le mie prove in radio al Canta Tu, tra una canzone delle Spice Girls e l'altra, non pensavo di presentarmi parlando dei miei genitori, ma in realtà pensavo di dover parlare di me, di quanto amo stare al centro dell'attenzione e di dove sono, insomma. È giusto, in effetti è un'osservazione intelligente. Allora spogliamoci tutti, Valentina di mamma veneta e papà veneto. Fantastico. Andrea Roccabella in regia di Genova, mamma genovese, papà genovese. Superata questa presentazione, parliamo di noi. Che cosa ci hai portato? Tu sei nata a Udine, sono molto curiosa. Io sono nata a Udine, ma non credo di poter portare nessun piatto friulano. Ahimè, parlerò penso del piatto di nonna Lidia, ovvero la frittata di maccheroni. Ah, fantastico, Napoli. Napoli. Mia mamma e appunto mia nonna sono a Gerolesi. E quindi sono cresciuta a cibi della parte appunto di Napoli, di Agerola, il fior di latte, la bufala e tutte queste cose. Nella frittata di maccheroni, non so se tu lo sai già. No, non la conosco. Se non vorrei sbagliare gli ingredienti, però c'è sicuramente la pasta, ovviamente, di diverso tipo. Ci sono i ziti, che sono questa pasta lunga, senza appunto cava, e ci sono vari tipi di pasta corta, liscia e ruvida, come i rigatoni, oppure ci sono gli spaghetti, i nostri amati spaghetti italiani, e ci sono questi ingredienti che sono uova, c'è del pepe, c'è della mozzarella tagliata a cubetti e della salsiccia. Una cosa leggera per poi ballare. Ma leggerissima, infatti, come vedi sono un fuscello. Ma no, in realtà sei un fuscello. Quindi la nonna, che ha il tuo nome, sì. Hai preso il nome dalla nonna, sì. Nonna è una Lidia. Cosa tipica del sud, la figlia deve prendere il nome della nonna e il figlio, che in questo caso non c'è stato ma l'ha preso mio cugino, l'ha preso il nome del nonno, Agostino. Fantastico, noi eravamo molto felici di tutto ciò. Immagino che dalla nonna tu abbia preso anche molto. Stavi spesso con lei, hai imparato a cucinare da lei o no? Ho preso a ballare molto, da lei? Sì. Ho preso molto a ballare, no, a cucinare anche, non ho preso, no, mi ha voluto, ha cercato di insegnarmi quelle che sono le sue tecniche, e ogni mattina mi svegliava alle 6 del mattino più o meno con questo sugo che preparava molto lentamente, sai, con la carne macinata piuttosto che il pomodoro, San Marzano e tutto ciò, ma io non ho imparato niente perché... In realtà mia mamma lavora nella ristorazione e ha un ristorante, quindi quasi da sempre, abbiamo un ristorante a disposizione da sempre, quindi sono sempre andata in cucina, ho chiesto allo chef cosa potevo mangiare e quindi era molto semplice per me. Dal papà che cosa ti ha trasferito anche della cultura nigeriana, della cucina nigeriana, se il papà cucinava, e come mai il papà si trovava in Italia? Com'è stato questo incontro? Allora, mio padre ha parlato sempre molto poco di sé, delle sue, di come e perché è venuto in Italia, però so che, almeno quello che ci ha detto, è che voleva studiare qui. Inizialmente però è andato in Germania, ha studiato in Germania, lavorava nella radio, tra l'altro, alla radio, e poi dopo, per questioni più private, si è trasferito in Italia. Di che anni stiamo parlando? Non ne ho idea, so che lui però comunque era giovane. Però un altro tipo di immigrazione, chiaramente. Sì, lui avrà intorno ai 50, penso 50-55 anni, da lì, diciamo. Ed è arrivato giovane. Sì, secondo me era intorno ai suoi 20 anni, immagino una cosa del genere. Non è mai parlato tanto, è uno molto silenzioso, e so che comunque ha incontrato mia madre in Italia, a Palmanova, tra l'altro, dove io sono nata e poi cresciuta fino ai 7 anni, e questo è, diciamo, la base di dove è partita la nostra famiglia. I miei genitori si sono separati quando ero molto piccola, avevo 7 anni, e io, mia madre e mia sorella abbiamo iniziato a spostarci. Io a 7 anni ho iniziato a studiare danza in questa scuola del mio paese, a Udine, e da lì poi ho iniziato a voler intraprendere questa strada molto più seriamente. Ho iniziato l'Accademia a Milano di Susanna Beltrami, che ho finito 3 anni dopo, e poi sono volata a New York perché volevo iniziare un'altra accademia, ovvero l'Alvin Ailey Dance School. E poi sei rimasta molto a New York. Sì, per fortuna sono riuscita a iniziare a lavorare come ballerina, inizialmente in una compagnia con base a New York, di Maya Garcia, che è anche con cui ho lavorato anche recentemente per Spike Lee, che quindi, cioè, io ringrazio dal primo giorno in cui l'ho incontrata. E diciamo che dopo aver fatto dei tour così in compagnia, ho iniziato a lavorare anche per degli artisti a Los Angeles, perché poi mi sono spostata anche lì. C'è qualche nome carino come Alicia Keys, Pharrell Williams, Kendrick Lamar, e insomma un po' di artisti per niente, abbastanza importanti. Dopodiché mi sono spostata, sono tornata in Italia. Sei tornata in Italia. Sì. Allora ci fermiamo brevemente, poi sentiamo il resto della tua storia e fra pochissimo. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presenta. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Ben ritornati a Indovina chi viene a cena. Questa sera siamo con Lidia Cherio, ballerina italiana di colore. Stiamo raccontando la sua storia, che è partita da Palmanova, dal Friuli Venezia Giulia, è volata prima a Milano e poi negli Stati Uniti. E ti abbiamo lasciato lì, Lidia. Poi sei tornata in Italia, perché e che cosa stai facendo in Italia? Sono tornata in Italia inizialmente perché mi avevano chiamato per un'altra tournée italiana come ballerina. Dovevo rimanere inizialmente solo per 6 mesi, poi mi hanno invece reclutato anche come attrice ballerina. Negli Stati Uniti avevo avuto qualche possibilità anche nel mondo un po', diciamo, diverso da quello della danza, perché ho fatto qualche comparsa, sai, nei film Divergent, avevo fatto Straight Out Out of Compton, che è molto famoso specialmente in America, molto così nel background, mentre qui appunto ho avuto queste nuove opportunità. E da lì ho deciso di continuare a rimanere in Italia, principalmente perché in realtà io in America mi sono riscoperta molto e ho riscoperto molto la mia italianità. Ho lavorato molto su me stessa, ho lavorato con del supporto che sono arrivate da vari professionisti e quindi ho ricreduto in quelle che erano le mie capacità. Sto cercando di mettere insieme una squadra che all'occorrenza possa aiutare e supportare i giovani talenti proprio come avevo bisogno io alla loro età. Quindi diciamo che tra le mie conoscenze nel mondo dello spettacolo, nel mondo dello sport, ho provato a mettere insieme una squadra forte che con personaggi, comunque con dei talenti che magari da soli non crederebbero in loro stessi, con noi magari lo possono fare. Avendo riscoperto che ci sono molti talenti e molti giovani e non giovani che si sentono stereotipati in un modo o nell'altro, non solo per il colore di pelle, per qualsiasi cosa, noi abbiamo stereotipi negativi ovunque, cioè il mio essere donna è stato il primo stereotipo negativo che mi hanno insegnato che può... scoglio. Esatto, ma poi scelgo di fare la ballerina, quindi cioè immagina, ho tutto nera, cioè mia mamma e mia nonna avevano veramente, si mettevano le mani tra i capelli. Ma è vero, diciamo, che tua nonna diceva sei bellissima, peccato che sei nera? Questa cosa è una delle cose che appunto di cui parlo sempre, perché in realtà mia nonna era molto diretta e diceva le cose come stanno. Ovviamente stiamo parlando della nonna napoletana. Sì, mia nonna Lidia che non c'è più e diciamo che mia nonna appunto non le ha mai mandate a dire da nessuno nei miei confronti, ma anche nelle... Ci siamo accorti. Ce ne accorgiamo, ma per fortuna ti dico, perché... soprattutto ti rende partecipe di quello che è il pensiero che magari non tutti esprimono, non con cattiveria, però mia nonna sapeva che il mio essere nera mi avrebbe dato delle difficoltà, soprattutto nel mondo dove stiamo crescendo. Quindi mia nonna era quasi appunto addolorata del fatto che tante cose probabilmente non riuscirò a superarle, oppure tante cose avrò più difficoltà degli altri nel farle. E è come una ragazza... Una palestra, insomma, era sì, stata una palestra. Sì, ma è come se avessimo un bambino un po' più in carne, un bambino un po' più in forma, che magari vuole intraprendere quella che è la strada della moda, piuttosto che... un genitore ti dice peccato che però c'è questa cosa che ti sarà comunque di ostacolo. E ti faceva il bagnetto e ti lavava bene bene. Sì, pensava lei magari di potermi questo aiutare in questo modo. Questo l'hai raccontato tu, no? Sì, pensava di potermi aiutare in questo modo, ma sì. Sbiancandoti. Sbiancandomi, ma non mi ha aiutato. Questa nel cosa senso ti ha reso più insicura? Inizialmente sì, perché è una realtà che appunto se pensano i tuoi familiari, che sono quelli vicini, puoi immaginare quanto lo pensano gli altri. Quindi diciamo che questa incertezza nel pensiero degli altrui a scuola o per le strade ti fa, in inglese si dice second doubt, cioè hai dei dubbi due volte, non si è il primo, riflette su di te. Esatto, hai più volte questi dubbi su incertezze che magari altri non hanno su queste cose, e magari tu invece in altri sì. Quindi inizialmente diciamo così mi ha reso molto più debole, però capirlo e soprattutto avere l'opportunità di condividerlo con altre persone che magari si sentono stereotipate negativamente nello stesso modo, mi ha dato molta più forza, mi ha dato comunque la consapevolezza che di avere una marcia in più, comunque di essere serena così come sono. tu sei tornata dagli Stati Uniti dopo 6 anni circa, sette. Avrai trovato un'Italia diversa. Molto, positivamente anche, perché sono tornata a Milano nel periodo poco prima dell'Expo e comunque andavo avanti e indietro tra America e Italia, soprattutto in quel periodo lì ci sono state, cioè questa rivoluzione di questa città che si è aperta molto di più, ha aperto i fronti molto di più, quindi ha anche creato uno scambio interculturale tra appunto diverse culture che è piacevole, secondo me. Io sono purtroppo molto una dreamer, una sognatrice, anche per il mio segno zodiacale che è Aria e che quindi vede tutto quanto molto tutto roseo, però a me piace l'idea che l'unione fa la forza, che insieme possiamo achieve bigger things, quindi non lo so, io sono stata molto contenta di essere ritornata in questa Milano nuova. Tu sei una ballerina di danza moderna, mm-hmm. Però nella danza classica, parlavamo prima, no, fuori onda, ancora adesso ci sono delle resistenze verso le ballerine di colore, soprattutto se diventano prime ballerine. Citavamo il caso della ballerina americana Misty, mm-hmm. Credo sia diventata prima ballerina dei New York City Ballet. Esatto. E questa cosa ha sollevato un po' di polemiche, di scalpore, se non altro di stupore, perché già un tutù candido con un corpo di colore è una novità. È una novità, soprattutto, vabbè, diciamo che i pareri negativi su tutto ciò che è tradizione, con quello che vediamo noi come tradizione, probabilmente ci saranno sempre e in qualsiasi campo. In questo caso è stata appunto la prima a cambiare le cose e ha creato anche tantissima positività, lasciando perdere il fattore che lei sia nera, che è importantissimo, ma il fattore che delle ballerine anche con delle fisicità diverse, lei è molto atletica, lei è molto muscolosa e she embraced it, quindi la mette sotto una luce ancora più forte, ti fa crescere con la speranza di poter arrivare dove magari un giorno prima non pensavi di poter arrivare, e questa è una delle cose più belle, come ha fatto anche Obama. Il fattore che lui sia stato presidente degli Stati Uniti d'America e fosse stato il primo presidente nero ha dato la speranza a tanti bambini. Frittata di maccheroni. Ingredienti per 4 persone. 350 g di maccheroni o altro tipo di pasta. 5 uova, 20 g di burro, 50 g di parmigiano grattugiato, sale e pepe quanto basta, 100 ml di latte, facoltativo. Procedimento. Cuocere la pasta al dente in abbondante acqua salata. Scolare la pasta e condirla con il burro. Poi lasciarla raffreddare un po'. Sbattere le uova con sale, pepe e parmigiano. Aggiungere eventualmente il latte per rendere la frittata più soffice. E mescolare ai maccheroni. Scaldare l'olio in una padella antiaderente e versarci dentro la pasta. Cuocere a fuoco basso, rigirando di continuo la padella. Quando il composto sarà diventato compatto e sulla superficie si sarà formata una crosticina dorata, capovolgere il tutto con l'aiuto di un coperchio o di un piatto. Terminare la cottura dall'altro lato per circa 5 minuti. Sollevare la frittata di pasta e poggiarla su un piatto da portata ricoperto di carta assorbente. Ma tu davvero mangi queste cose per ballare? Per ballare? No. No. Però diciamo che sono cresciuta veramente con il cucchiaio pesante. Mia nonna usava lo strutto per qualsiasi cosa, ancora un po' la metteva nella crema per farsi i massaggi al viso la mattina. Cerco di andare a casa il meno possibile, ti dico questa cosa qui. mia nonna ha tramandato tutto ciò a mia mamma, mia zia, l'altra mia zia. Quindi diciamo che quando vado a casa il mangiare leggero non è una delle priorità. Però sono una che se vuole è molto disciplinata, diciamo che riesco a qualche volta ad evitare il peggio. In più, essendo friulana, avendo anche questa friulanità in me, c'è anche il buon vino di cui noi ci vantiamo tanto, e quindi metti uno e l'altro insieme, cioè buon appetito. Vero, buon appetito a tutti. Grazie a Lidia Cherio per essere stata con noi questa sera, grazie ad Andrea Roccabella, a tutti voi per essere stati in ascolto, ci risentiamo sabato prossimo sempre sulle frequenze di Radio 24 e sulle 24 ore, ciao! You've got to give a little. That's the glory of love.